Gli interpreti. E ascolta il testo. Il melodramma non significa solo grandi compositori, ma anche grandi interpreti, come i tenori Enrico Caruso, 1873-1921, e Luciano Pavarotti, 1935-2007. Enrico Caruso è il tenore per eccellenza e conosceva personalmente Giacomo Puccini. Infatti il compositore ha scritto La fanciulla del West proprio con Caruso come interprete. È diventato celebre per l'impeto e la personalità che entusiasmavano il pubblico. Gli appassionati della lirica dicevano di lui che le corde vocali le aveva nel cuore e non nella laringe. Sul New York Times hanno scritto che quando Luciano Pavarotti è nato, Dio ha baciato le sue corde vocali. Pavarotti ha interpretato varie opere melodrammatiche, ma come affermava lui stesso, l'opera pucciniana è rimasta quella più rappresentativa del suo repertorio. Il fascino di Pavarotti deriva anche dal fatto che è riuscito a cantare in modo eccezionale anche con interpreti di vari generi musicali. Dai tre tenori con José Carreras e Plácido Domingo a Pavarotti and Friends con cantanti pop e rock.